Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stasera ospiti di Vines. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del disco Kill Me Martina, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato il titolo. Questa era Everyday. La vostra esperienza in sala di incisione e quali idee musicali che hanno poi realizzato questo disco? Per noi parlare di esperienza in sala di incisione è un po' limitativo, nel senso che siamo abituati a stare in sala di incisione praticamente sempre, tutti i giorni della settimana. Abbiamo... chiedete stile bunker. Sì, esatto. Abbiamo fatto tutte le preproduzioni e la composizione dell'album in studio, quindi abbiamo un approccio un po' diverso alla sala di incisione rispetto alle altre band. E per quanto riguarda le idee musicali che hanno poi permesso di arrivare a Kill Me Martina, sono molto diverse tra loro, in quanto veniamo tutti da realtà estremamente diverse, musicalmente parlando. Però forse questo è stato appunto il punto di forza, siamo riusciti ad accontentarci l'un l'altro senza sacrificare mai niente, e alla fine il risultato è un mix di diversi stili musicali, diversi generi. La prossima canzone per chi ci ascolta? E la prossima canzone è Kill Me Martina. In studio ancora con i Divines, recensioni varie, leggo dalle vostre pagine internet che ne stanno arrivando parecchie. Quali le più lusinghiere e cosa dicono sul vostro album? Sì, allora, Kino e Martina fino ad ora è stato recensito da, diciamo, parecchie webzine e ogni recensione ha avuto un riscontro, direi decisamente positivo. Ci ha fatto molto piacere soprattutto il fatto di essere stati paragonati a grandi gruppi come Soundgarden, Nickelback e Linkin Park. Cioè, questa è tutta gente che ha venduto milioni di dischi, insomma, speriamo ci porti bene. Inoltre, diciamo che attraverso alcune piccole critiche che ci hanno fatto i recensori, siamo diciamo portati a cercare di fare sempre del nostro meglio e a migliorarci ogni volta. Prossima track. La prossima canzone si intitola Experience. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Divines. Voi restate sempre su Radio RCS. Darkness grows.